Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare qui a Smart City di politiche temporali, cioè di tutti quei tentativi sempre più urgenti col dilatarsi e il complicarsi degli orari di lavoro di conciliare i tempi di vita e appunto quelli del lavoro. Parliamo insomma di iniziative che permettono di utilizzare meglio il proprio tempo e soprattutto che ci evitano in quanto cittadini di perdere inutilmente tempo. Bene, tra queste iniziative c'è la giornata del cittadino. Per parlarcene, Chiara Albicocco ha incontrato Marco Mareggi, architetto e docente al Politecnico di Milano, che da più di 20 anni si occupa di progettazione di territori urbani sia dal punto di vista spaziale che dal punto di vista temporale, e che ci spiega anzitutto un po' meglio che cos'è la giornata del cittadino. Sentiamo. Dunque, la giornata del cittadino è sostanzialmente un accordo, spesso tra molti enti, qualche volta solo per il comune, in cui gli enti pubblici si mettono d'accordo per fare un orario concordato tutti uguale in un giorno alla settimana di solito. L'obiettivo è quello di far ricordare facilmente al cittadino quel giorno i servizi della città, i servizi pubblici prevalentemente, sono aperti per te. Bene, facciamo un esempio. Cremona, dove lei ha lavorato, ha la giornata del cittadino che cade di mercoledì. Ecco, si sa che insomma quel giorno tutti gli uffici pubblici fanno orario continuato. In alcuni casi alcune città, alcuni amministratori possono scegliere anche di tenere aperto, ad esempio in un orario prolungato serale, ecco. Però il cittadino sa che non si dovrà preoccupare degli orari in quella giornata. Diciamo che prevalentemente in sostanza si offre un orario continuato. Perché? Perché nella pausa del pranzo spesso sono capoluoghi di provincia, le città Lodi, Como, Pavia recentemente, Monza, Piacenza, hanno privilegiato l'orario continuato. Perché, dicevo, è un modo per cui uno nella pausa del pranzo, quando è al lavoro, quindi nel capoluogo di provincia, spesso si reca lì a lavorare, oppure per altri interessi, spesso viene collegato con il giorno di mercato, è già in città, diciamo, e quindi può acquisire nella pausa del pranzo anche i servizi, ecco, senza dover, ad esempio, questo è un vantaggio, dover chiedere un permesso. Mareggi, questa giornata del cittadino ha preso piede in Italia, in un po' di città, o ancora bisogna lavorare per promuoverla? Bisogna continuare a promuoverla, ma perché è una caratteristica di queste politiche che agiscono sui tempi, che sono delle politiche deboli, delle politiche basso tasso economico, di costo economico, bassi interessi in gioco di poteri forti, quindi si fa fatica, quindi bisogna promuoverle continuamente. Però in questi 10-15 anni la giornata del cittadino è certamente diventata una dei temi di punta e diciamo che si è diffusa. Nell'arco del tempo l'ha fatta anche Roma, l'ha fatta il comune di Bolzano, lo hanno fatto moltissime città lombarde perché la regione è molto forte nella sua promozione, lo hanno fatto alcune città emiliane. Forse è meno nota nel sud. Recentemente la regione Puglia dal 2007 ha messo a punto una legge regionale che favorisce dei finanziamenti e stanno lavorando. Ci sono alcuni comuni, ad esempio Foggia, che stanno ragionando su fare la giornata del cittadino, quindi non la stanno facendo. E se c'è qualche amministratore in ascolto, che cosa possiamo dire? Intanto, quali sono i punti di forza di questa iniziativa importante e però anche le difficoltà magari oggettive che si incontrano? Allora, i punti di forza sono interagire tra comune, che di solito è il promotore, il sindaco, e di solito quello che viene chiamato ufficio tempi, un ufficio presso il comune, che si attivano, e coinvolgere il prefetto. E presso la prefettura è istituito per legge un tavolo che si chiama Comitato Provinciale delle Pubbliche Amministrazioni, e invece che inventarsi una nuova luogo di incontro dei soggetti pubblici, utilizzare questa istituzione. Questa è sempre stata una chiave di volta perché è un'istituzione riconosciuta dagli enti che devono fare questa cosa e quindi facilita, nel senso che basta portare un nuovo tema nell'agenda di quell'organismo. Dove si è fatto e dove il prefetto ha collaborato con il sindaco, la cosa ha funzionato velocemente. I problemi. Ecco. Il primo problema sono certamente gli orari di lavoro, perché cambiare l'orario al pubblico vuol dire che qualcuno dovrà lavorare per tenere aperto quell'ufficio. Le politiche temporali non si sono mai dimenticate del fatto che l'orario ha questa componente doppia. Cioè, certo. C'è un negozio aperto, uno sportello aperto, qualcuno lo terrà aperto. A quel punto si creerà un sistema di turni. Si creano sistemi di turni, oppure come si è fatto in molte realtà, a Cremona l'hanno fatto molto bene, si è lavorato a Lodi, lo hanno fatto molto bene, a Como lo hanno fatto molto bene, a Bolzano, si è lavorato molto con i dirigenti facendo in questo modo, preparando dei materiali per questa conferenza altamente istituzionale per la città. Questi materiali erano dei materiali a disposizione di tutti e si invitavano i dirigenti degli enti a fare lo stesso, chiamiamolo gioco, cioè lo stesso lavoro di interazione all'interno dei loro enti e andando a negoziare, che non è mai stato un negoziato perché è sempre stata una discussione collaborativa, a me piace chiamarla coprogettazione, insieme per capire chi voleva fare. Qualche volta è stato un turno, qualche volta sono stati dei piccoli slittamenti di orari che spesso, analizzati uno per uno e non in generale, sono diventati interessanti perché hanno messo in campo, ad esempio, qualcuno che vuole arrivare un po' prima al mattino o che vuole arrivare un po' dopo al mattino e che quindi prolunga il suo orario, però in piccoli spostamenti spesso è possibile risolvere il problema. Ha ottimizzato il piano dei tempi anche il lavoratore, giustamente. Certo, certo, anche perché anche questo è un modo per agire sui tempi. Le politiche temporali non pensano mai, cioè ci provano, ci riescono a non pensare mai ad una soluzione monodirezionata per l'utente, ma pensando sempre che c'è un utente che acquisisce un servizio, un lavoratore che eroga un servizio. Senta Mareggi, ma tirando insomma un po' le conclusioni, mi pare che sia i cittadini che i lavoratori che lavorano per questi comuni particolarmente intelligenti sia un successo insomma alla fine. È un successo e tenga conto che ad esempio al comune di Cremona fu fatto un monitoraggio, c'è stato un successo da parte del pubblico dell'80% nel 99 che è diventato un 86% nel 2002. Più recentemente il comune di Lodi ha fatto una survey di gradimento nel 2008 e più dell'85% degli utenti intervistati, l'85% l'ha gradita. I lavoratori di solito sono molto disponibili. Anche per oggi abbiamo concluso, grazie a Marco Mareggi, grazie a Chiara Albicocco, a domani.